Otra destinazione, un viaggio zero limite morale, generazione che ha le botte bianche per colazione, stiamo marcando una dimensione, ci arresta che fa, ci arresta o si va. Tirati su, questa è una sera di quelle che a casa non ci torni più, e perdi i tuoi margini alcolici. Vediamo un po', proviamo qualche tettona che non sappia dire di no. Ci consoli un po', almeno fino al giorno. Paletta rossa ci ferma, stai calmo, tutti sempre sì. Documenti sulla mano, fumo sotto al tappetino e la guardia sera dove si va? Per tutta un'altra destinazione, un viaggio zero limite morale, generazione che ha le botte bianche per colazione, stiamo varcando una dimensione, ci arresta che fa, ci arresta o si va? Mi dica lei, se ti hanno fatto e cresciuto sbagliato, che colpa ne hai? Ci vede forse un poco instabili. Prego però, ecco le nostre patenti, il libretto, i precedenti, che so, li vuole o no, prima che venga giunto. Paletta rossa che cerca una prova dentro alla machine. La mia busta bianca, una strana cicca spenta e un biglietto classe cielo che va. Per tutta un'altra destinazione, un viaggio zero limite morale, generazione che ha le botte bianche per colazione, stiamo varcando una dimensione, ci arresta che fa. Per tutta un'altra destinazione, un viaggio zero limite morale, generazione che ha le botte bianche per colazione, stiamo varcando una dimensione, ci arresta che fa, ci arresta o si va.